ai radioascoltatori, benvenuti. Sono le 20 ore locali equivalenti alle 18 ore di Greenwich. Programma di lingua italiana di ultramare a destinazione dell'Europa centrale, trasmesso sulla frequenza di 9490 kHz, pari a 31 metri delle onde corte. Della rivoluzione egiziana del gennaio 2011 esordisce il 25 gennaio, quando circa 50.000 manifestanti scendono in piazza nella capitale per chiedere riforme politiche e sociali sul modello della rivoluzione del Gelsomino messa in atto in Tunisia. La manifestazione si trasforma poi in scontro aperto con le forze dell'ordine, contro molti che hanno lasciato sul terreno vittime. Lo stesso giorno il principale social network tra cui Twitter e Facebook appaiono oscurati, secondo alcuni per iniziativa delle autorità, per evitare che le notizie indirette sulle proteste nel paese facciano il giro del mondo. Thank you. È del tutto naturale l'approccio planetario ed Egitto alla cooperazione nello sviluppo. È l'incontro di Vampiro Circa, volto al raggiungimento dell'obiettivo, che contribuiscono ad un forma di stretta amicizia. È sulla base di questo principio di mutuo rispetto che si generano le nostre relazioni, operare insieme. Italia, Egitto, rapporti tra Vampiro Circa. Anticipazione fondata nel 2001 di italiani immigrati in Egitto. Anticipazione fondata nel 2001 di italiani immigrati in Egitto hanno partecipato al progresso sociale, economico e culturale nei campi delle opere pubbliche e artistiche, del giornalismo, della medicina, della genetica, del commercio e dell'industria. La presenza italiana in Egitto risale già a partire dalla prima metà dell'Ottocento. È del 1845 il primo giornale degli italiani. I primi a giungere ad Alessandria al Cairo furono gli ebrei toscani e dello Stato Pontificio, mentre il grosso del flusso iniziò intorno al 1910. Circa 70.000 unità prima della Seconda Guerra Mondiale. Ma dopo il secondo conflitto mondiale, in particolar modo con la rivoluzione sirica, si fu il vero e proprio grande esodo, e il numero degli italiani ha fatto un ruolo di unità che ridosse. Le nuove leggi sul lavoro impedirono di fatto di rimanere in paese. Gli italiani di Egitto erano banchieri, architetti, importarono lo stile Liberty, e furono le grandi costruzioni del centro di Alessandria e del Cairo e degli eleganti boulevard di Costruzola. Costruttori, piccoli imprenditori ed artigiani, e costituivano sicuramente una comunità di riferimento, anche perché per il numero era la seconda dopo quella greca. Questi famosi, Giuseppe Ungaretti, Anna Manuale, e il futurista Marinetti, gli architetti Alma Già, si costruirono il porto di Alessandria e lavorarono al canale di Suez. Paolo Castro Dominioni, progettista della sede dell'ambasciata italiana al Cairo, dell'ospedale italiano del Cairo in Ventotene, e il prete del Medio Mausoleo della Armi e dell'Ute Musicale Giuseppe Verdi in Alessandria. Raccontate da due italiani, anche state nel lontano di migrazioni, e che loro sono anche costretti nella distanza. Il scoperto nel racconto degli italiani di Egitto è una storia di questi nuovi valori, come lo scambio culturale e la convivenza tra culture diverse. Formato inizialmente dall'esodo delle campagne napoleoniche, dei mezzi rivoluzionari e delle guerre di indipendenza, la comunità italiana in Egitto conosce una crescita esponenziale, raggiungendo l'apice negli anni 30 con un presenza di 60.000 persone. Le classi sociali sono le più diverse. Alla manodopera impiegata nelle opere di modernizzazione del paese si affiancano meno importanti nei settori dell'architettura, dell'arte e della cinematografia. Porta la firma di un signore italiano, Francesco Androna. Il sistema qua in primo d'Egitto ancora Ernesto Erucci, lavori di ristrutturazione e di nuova costruzione di Palazzo Reale in Cairo ad Alessandria. Alcune delle più belle moschee d'Egitto moderne si devono a Mario Erucci. dell'Accademia di Anthony Pittori del calibro di Adam e Sofrarlo per la discussione della tecnica cinematografica e merito di studiare al vice o un personaggio. Religioso, le chiese francescane e salesiane, oltre ad occuparsi della vita delle anime, garantiscono attraverso le proprie scuole la formazione professionale di ragazzi italiani e egiziani. Le antiche si scatenano a partire dallo scoppio della seconda guerra mondiale, segnalando il declino inaccettabile di questa comunità. Questo ricordo è oggi affidato all'opera di centri culturali come l'Associazione Nazionale Pro Italiani del Giù. L'amicizia è invece la soglia. L'affetto e la stima che pervadono tutte le discriminanti, anche nei momenti drammatici, restituiscono l'immagine di una comunità cresciuta all'insieme dello scambio culturale più autentico. Nella scuola personale c'erano la convivenza era meno ottima. Ebrei, cristiani, musulmani, gli uomini vicini negli anni 30. Si respirava una cultura contenuta. I ministri organizzavano il gruppo di moschee nelle chiese e nelle sinagoghe. Erano le possibilità sia di barriere e di discriminazione. L'Egitto ha permesso alla comunità italiana di lavorare senza alcuna pressione. Gli italiani hanno sempre portato rispetto al paese che lo accoglie. Italia e Enrico. Il cuore del tuo cane è Sono le 20:15. iniziamo con i titoli delle principali notizie. John Kerry annuncia il suo ritorno in Israele verso il 21 maggio. La polizia israeliana arresta il più importante leader religioso musulmano per il cinese. Russia e Stati Uniti sono d'accordo per porre fine alla carneficina che sta infiammando il Medio Oriente. I ribelli del partito del Kurdistan cominciano oggi il proprio ritiro dal territorio turco. E ora ascoltiamo le notizie in dettaglio. Il segretario di Stato USA John Kerry oggi ha detto che tornerà in Medio Oriente questo mese per colloqui con il presidente palestinese Mahmoud Abbas, con il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu, nel tentativo di ridare slancio ai negoziati di pace. Tornerò in Israele per incontrare sia il primo ministro Netanyahu che il presidente Abbas intorno al 21 e al 22 di questo mese, ha detto Kerry ai giornalisti prima di iniziare il colloquio con il ministro della giustizia israeliano Tzipi Livni, negoziatrice per la pace all'interno del suo esecutivo. Kerry dovrebbe incontrare separatamente Netanyahu e Abbas. La polizia israeliana è arrestata oggi il più importante leader religioso musulmano palestinese, prelevandolo dalla sua casa di Gerusalemme, all'indomani degli scontri tra israeliani e palestinesi davanti alla moschea di Al-Aqsa. L'arresto, che cade nel giorno in cui Israele celebra la conquista nel 1967 di Gerusalemme Est, è stato condannato dai leader palestinesi, che lo considerano una violazione della libertà religiosa nella città santa. Il capo dell'organismo antifrode egiziano, Yahya Dalal, ha prolungato di 15 giorni la custodia cautelare nei confronti dell'ex rais Hosni Mubarak, coinvolto in un procedimento per corruzione e malversazione di fondi pubblici. L'11 maggio riprenderà davanti alla Corte d'Assise un nuovo processo contro Mubarak, il suo ex ministro dell'interno Habib Lasla e sei suoi collaboratori per le morti dei manifestanti durante la rivoluzione del 2011. L'esercito siriano ha ripreso il controllo della città strategica di Kirbet Ghazaleh, situata nella piana di Hawran, al confine con la Giordania, dopo due mesi di bombardamenti contro i ribelli che l'avevano conquistata. Lo annunciano fonti dell'opposizione, spiegando che la caduta di Kirbet Ghazaleh segna un avanzamento delle forze del presidente di Bashar al-Assad per il controllo di una strada di transito internazionale. Da qui si sono oggi ritirati migliaia di ribelli che hanno lamentato uno scarso sostegno da parte delle autorità giordane nel combattere le forze di Damasco nella regione. Russia e Stati Uniti si sono messi d'accordo a mettere da parte le proprie divergenze sulla Siria per cercare di organizzare colloqui internazionali con entrambe le parti coinvolte nella guerra civile, per porre fine alla carneficina che sta infiammando il Medio Oriente. In una visita a Mosca, dopo che Israele ha bombardato obiettivi vicino a Damasco, e mentre il presidente USA Barack Obama deve fronteggiare nuove richieste di armare i ribelli, il segretario di Stato USA John Kerry ha detto che la Russia ha consentito a cercare di organizzare una conferenza già questo mese, che coinvolga il governo del presidente Bashar al-Assad e i suoi oppositori. Il disaccordo tra Oriente e Occidente ha bloccato gli sforzi dell'ONU per cercare di trovare una soluzione al conflitto siriano in corso da due anni. Tre piloti dell'esercito yemenita con il grado di colonnello sono stati uccisi da presunti membri di Al-Qaeda in un agguato nella provincia di Lahija, mentre facevano rientro ad Al-Anan, la più grande base aerea dello Yemen. La rete terroristica aveva pubblicato un elenco di piloti di stanza nella base di Al-Anan da eliminare perché colpevoli di condurre attacchi aerei contro le postazioni dell'organizzazione terroristica. Sono le 20:20, da Radio Cairo state ascoltando il notiziario. Due attivisti della Croce Rossa Indiana sono stati rapiti nello Yemen, lo ha annunciato un responsabile locale. I gruppi armati che da oltre una settimana assediavano i ministeri degli esteri e della giustizia a Tripoli hanno ritirato i mezzi blindati dispiegati presso i due uffici, ma continuano la loro protesta. Il ritiro dei blindati arriva dopo una manifestazione degli abitanti del quartiere che protestavano per la presenza di armi pesanti. miliziani chiedevano l'adozione di una legge che diede agli ex collaboratori o dirigenti di origine di Muammar Gheddafi di occupare incarichi pubblici. Il provvedimento è stato di fatto approvato qualche giorno fa dal Congresso nazionale e dovrebbe entrare in vigore fra un mese. Le milizie chiedono ora anche le dimissioni del premier Ali Zeidan, accusato di eccessiva indulgenza verso gli ex sostenitori di Gheddafi. Dopo lo storico appello lanciato dal leader curdo Abdullah Öcalan, che a marzo aveva chiesto ai separatisti di deporre le armi e lasciare il territorio turco, i ribelli del Partito dei Lavoratori del Kurdistan, PKK, hanno cominciato oggi il proprio ritiro dirigendosi verso i covi montuosi di Kandil in Iraq. Il processo potrebbe mettere fine a 29 anni di guerriglia, durante i quali migliaia di persone sono morte nella lotta intrapresa dal PKK per il riconoscimento e l'indipendenza dell'etnia kurda. Sono diversi circa 15 di abbigliamento considerati pericolosi, situati dove trovo, che ha causato 804 morti nel parato di Rana Plaza lo scorso 24 aprile. Lo ha detto il ministro del governo di Dhaka ai giornalisti. Gli stabilimenti colpiti dal provvedimento si trovano nella capitale e nella seconda città portuale, Chittagong. In kamikaze la guida di un'auto imbottita di esplosivo si è schiantata oggi a Bangalore, nel Pakistan nord-occidentale, con un bilancio di 3 morti e 27 feriti. Lo riferisce JTV. L'esplosione fortissima ha causato anche ingenti danni agli edifici circostanti. L'attentato non è stato per il momento rivendicato. Il presidente francese François Hollande ha partecipato stamani, sotto una pioggia battente a Parigi, alla tradizionale cerimonia dell'8 maggio, che celebra la vittoria degli alleati sul nazismo durante la Seconda Guerra Mondiale. Presente anche il presidente polacco Bronisław Komorowski. Dopo aver depositato una corona di fiori ai piedi della statua del generale De Gaulle, il capo dello Stato si è risalito lungo gli Champs-Élysées all'Arco di Trionfo, dove riposa il monumento ignoto. Lascia l'incarico il vice premier russo Vladislav Surkov, ex spin doctor del Cremlino, il fautore della democrazia controllata dei primi governi di Vladimir Putin. Proprio ieri il portavoce della commissione inquirente Vladimir Martin aveva firmato un articolo al Vetrovello pubblicato sul quotidiano file governative di Svezia, in cui si contava il voto contro Surkov per le critiche sementiste avviate nel discorso dalla stessa commissione sul manager del centro di alta tecnologia di Skolkovo, la Silicon Valley russa voluta da Dmitry Medvedev nel 2010. Il leader del Cremlino, Vladimir Putin, ha chiesto al Consiglio di sicurezza di elaborare rapidamente delle proposte per rafforzare la sicurezza dei confini meridionali della Russia, in vista del ritiro della NATO nel 2014 dall'Afghanistan e del possibile aumento della tensione. Il Presidente ha chiesto inoltre di accelerare la fornitura di attrezzature moderne alle forze rapide di reazione dell'organizzazione. Della sicurezza collettiva. Grazie cari ascoltatori, avete appena ascoltato il notiziario. Fra le forme morse del Cairo e di Istanbul. esportazioni dell'energia e la banca come sviluppo delle esportazioni americane. Nel corso di colloqui effettuati dalla sopraindicata missione, composta da 36 imprenditori egiziani e alcuni americani, la parte statunitense ha espresso il suo desiderio a rafforzare le politiche e i programmi del governo egiziano in favore alla rinascita dell'economia nazionale. Da parte loro, i membri egiziani della missione hanno chiesto di riprendere il dialogo tra i governi egiziano ed americano interno all'accordo del commercio libero e i relativi studi, nonché di aumentare il numero delle zone industriali qualificate nelle zone dell'Alto Egitto e di Alessandria, e di ridurre la percentuale della componente israeliana nei prodotti egiziani esportati tramite tali zone. Visita nell'Arabia Saudita, il ministro del petrolio e della ricchezza metallica ha affermato che le potenzialità dell'Egitto nel campo, che lo faceranno in una distinta posizione nel prossimo periodo in questa industria, tra i paesi della zona nel quadro del piano nazionale che viene applicato fino al 2020, con degli investimenti mirati a 20 miliardi di dollari. Egli ha dichiarato di tenere numerose riunioni alla capitale Riyadh con un certo numero delle società saudite interessate al sopracitato campo e di concordarsi con la parte saudita per la creazione di una convinta ed allargata alleanza e cooperazione nel campo dell'industria petrochimica favorevole ai comuni interessi dei due paesi arabi. Il presidente della borsa egiziana, il dottor Mohamed Emran, ha dichiarato che sarà concluso entro la fine di quest'anno il collegamento fra le borse del Cairo e quella di Istanbul. Emran ha menzionato di aver esteso l'invito a tutte le società registrate nell'indice principale della borsa egiziana, EGX30, a una riunione per esaminare i mezzi atti allo sviluppo delle regole di dichiarazione di tali società, in modo che siano più attraenti agli investitori turchi. Siamo arrivati così alla conclusione del vostro programma, vi auguriamo un buon proseguimento di serata e alla prossima puntata. Il dossier economico, a cura di Yasser Akme, presentato per voi da Antonello Bocchini. La più vecchia università del mondo alla ricerca di se stesso. questi sacerdoti gli hanno indicato che la guarigione si trova nelle acque del Nilo, che servono a guarire tutte le malattie. Euripide ha consumato l'acqua del Nilo e ha recuperato la sua salute. Si tratta di una prova innegabile dal fatto che gli antichi egizi abbiano sacralizzato il Nilo e le sue acque. Una stele sulla quale figura una poesia scritta in geroglifico sul monte del Nilo. Lui scritto: «O Dio glorioso, tu hai creato il Nilo per sviluppare le vite, se lo hai fatto sbordare dalle profondità verso la luce, conformemente alla tua volontà, al fine di dare a noi la vita e accordargli la sussistenza. Perciò perché tu stesso hai creato gli abitanti di questo paese. Tu hai creato il Nilo nel cielo per far discendere l'acqua a tutti e portare fertilità ai campi. Tu permetti agli abitanti dell'Egitto di bere acqua potabile. Ciò che fai è così glorioso. Tu sei il creatore supremo. Il Nilo del cielo è il tuo dono. Esso è l'origine del Nilo della terra che scorre in Egitto». Cari ascoltatori, i greci hanno colto la stretta relazione tra l'Egitto e il Nilo e hanno sempre indicato che il Nilo non ha solamente creato l'Egitto, ma gli ha accordato una vita rinnovabile. Secondo i greci, solo gli egiziani bevevano l'acqua del Nilo. Il celebre storico Strabone si chiede: «Qui è l'Egitto? È la valle del Nilo», ha detto Nicola. «Gli antichi chiamavano l'Egitto il paese irrigato dal Nilo». Strabone ha in effetti confermato che i visitatori non conoscevano il Nilo a proposito della natura di questo paese senza sapere la natura del Nilo. Il patrimonio greco dall'epoca più antica. Il poeta greco Esiodo ha indicato che il Nilo è una delle più antiche divinità. È figlio di Oceano e Tetis. I greci hanno anche stabilito un legame tra il Nilo e la loro più grande divinità detta Zeus, per il fatto che, secondo le loro credenze, era Zeus che portava loro l'acqua. Si tratta dello stesso ruolo che compì il Nilo per gli egiziani. serpente, in particolare la femmina del cobra, è un serpente che, se minacciato, può dilatare la parte posteriore della testa e tendere la pelle del collo fino ad assumere una forma simile a una racchetta, posizione che gli consente di sputare il veleno contro l'aggressore. Ma qual era il significato religioso del serpente nell'antico Egitto? Vi daremo la risposta dopo il prossimo sciacco musicale. Seguiteci. Secondo i racconti mitologici egizi, la femmina del cobra è il simbolo di Bajet, l'occhio del dio solare Ra, che si era staccata dal padre per poi farvi ritorno e collocarsi permanentemente sulla sua fronte. In questa veste l'immagine del serpente femmina si trovava posta sulla fronte del faraone, colui che rappresentava il dio solare Ra sulla terra. Quindi il serpente sulla corona del sovrano simboleggia la forza distruttrice al servizio del sovrano per terminare con i Wadjet proteggeva il faraone e il sole sputando veleno contro i nemici di questi. Wadjet significa la verde, quella del colore del papiro, e divenne il simbolo della protettrice del Basso Egitto, colei che proteggeva l'inondazione necessaria alla sopravvivenza del paese. Wadjet era quindi una specie di serpente buono, che vegliava perché il mondo non precipitasse nel caos. In generale, invece, i serpenti erano più visti come animali pericolosi, indipendentemente dal fatto che la specie a cui appartenevano fosse velenosa o meno. Si credeva che dal di là fosse pieno di serpenti che rappresentavano il potere del caos, che minacciava il buon funzionamento del mondo. L'esempio principale di serpente cattivo era Apophis, il grande serpente cosmico volto intorno alla Terra che minacciava continuamente di distruggerla. Il Sole era in continua lotta con Apophis per cercare di sconfiggerlo e per ripristinare l'ordine nel mondo. In questa lotta, tutte le notti, Apophis attaccava il Sole, sulla barca che lo portava in avanti. Apophis tentava di ingestire tutta l'acqua del mare in modo di poter poi circondare la barca, e ogni notte le divinità che mantenevano l'ordine nel mondo riuscivano ad avere la meglio su di lui, ma questa vittoria non si poteva dare per scontata. Il serpente era raffigurato nel copricapo del faraone, sinonimo di saggezza e conoscenza. Da Radio Cairo vi abbiamo presentato l'Enciclopedia Audio, a cura di Amen Shahin, presentato per voi da Antonella. Radio Cairo vi invita alla sua Santo dei musulmani, che comprende i principi della loro dottrina, del loro culto, di tutto ciò che concerne il loro comportamento sociale. Comprende anche differenti aspetti sui quali sono impostate le loro istituzioni culturali, sociali e politiche. Il Corano è il libro santo dei musulmani che comprende i principi della loro dottrina, del loro culto, di tutto ciò che concerne comprende anche differenti aspetti sui quali sono impostate le loro istituzioni culturali, sociali e politiche. Versetto Rivelazione è un programma che spiega i versetti del Corano che sono legati ad una certa situazione o ad un certo evento. Seguiteci. Questa sera ci soffermeremo sul versetto numero 100 della Sura delle Donne, che dice: «Dunque se lontani dai cieli sulla via di Dio troverà sulla terra numerosi luoghi d'asilo e spazio ampio, e chi esce dalla sua casa andando verso Dio il suo messaggero e raccoglie la morte, Dio si impegna a ricompensarlo, che Dio è pietoso e clemente». Per quanto concerne il motivo per cui questo versetto è stato rivelato, Muhammad ha riferito, secondo Qatada, che quando i versetti precedenti, quello da noi citato, in cui il nostro tempo dice al momento di portare via gli angeli dicono a coloro che hanno fatto le opposte fino a Dio, ma gli angeli dissero allora: la terra di Dio non è abbastanza grande per permettervi di emigrare, e il loro giro sarà in terra, e al giusto andare. quando questi defetti furono rivelati, un musulmano di nome Gombob, che era in cattive condizioni di salute, disse: per Dio, non ho nessuna scusa, posso trovare la strada senza nessuna guida, inoltre dispongo di mezzi finanziari, portatemi quindi dove volete. I compagni del profeta gli dessero retta, ma lui e durante il viaggio. Allora i compagni del profeta dissero: se solo fosse giunta la Mecca, la sua ricompensa sarebbe stata totale. Gombob trovò la morte in un sito chiamato Al-Kanin. I suoi figli si recarono all'ora del profeta e gli raccontarono ciò che era accaduto. Fu allora che discese il versetto da noi citato questa sera. Il jihad sulla via di Allah occupa un posto molto importante nell'Islam. Il jihad assume varie forme, tra le quali il sacrificio della vita, il versamento del denaro necessario all'equipaggiamento dell'esercito, nonché il fatto di allontanarsi dalla terra, in cui va estendendosi il politeismo, diretti verso un luogo il cui musulmano può rendere un culto puro ad Allah senza subire coercizioni. Questa emigrazione era necessaria soprattutto all'inizio dell'Islam. Il versetto che ho citato questa sera indica che colui che abbandonerà la sua patria per salvare la sua religione verrà aiutato ogni potente. Quando trova la morte sulla via verso la quale fu diretto, riceverà la stessa ricompensa prevista per gli migranti, ossia l'accesso a un paradiso, perché sono le intenzioni che contano, ed egli questo si proponeva. Il profeta disse: le azioni sono ricompensate in proporzione all'intenzione che le adottate quando vennero compiute. Ogni uomo sarà giudicato secondo le sue intenzioni. Colui che migra per il modo di Allah e del suo profeta avrà una ricompensa totale. Colui che migra per l'azione relativa alla vita su questa terra o di un progetto sarà ricompensato tenendo conto di tale intenzione. Per l'intenzione di compiere una buona azione, ma alcune circostanze lo vietano. Allora l'impotente lo giudica secondo le sue buone intenzioni e non secondo l'atto compiuto. Per voi l'antenna del destino. La polizia israeliana resta il più importante leader religioso musulmano in Israele. Russia e Stati Uniti sono d'accordo per porre fine alla carneficina che sta infiammando il Medio Oriente. I ribelli del partito del Kurdistan cominciano oggi il proprio ritiro dal territorio turco. Siamo arrivati al termine dei nostri programmi, ma prima di lasciarci, ecco a voi la presentazione dei programmi dell'indomani. Cominciamo come al solito alle 20, alle 20.00 dall'Egitto, alle 20.05 la metà della di MC è seguito da musica orientale, alle 20.15 il notiziario, alle 20.25 Spotlight di Monica Mini, alle 20.30 Pronto qui Radio Cairo di Marco Alloni, alle 20.35 Panorama Artistico di Heather Shea, alle 20.40 Prima Pagina di Escusano Del Maggiù, alle 20.45 Monica Mentale, alle 20.50 Almanacco Turistico di Annenzio, alle 20.55 il ritiro delle principali notizie. Termine una canzone araba e la presentazione dei programmi dell'indomani. Dallo studio 33 di Radio Cairo speriamo di essere stati positivamente in vostra compagnia e vi auguriamo una buona serata. Alla tecnica hanno stato Ferruccio e al microfono Antonello Bocchino.